Il libro di Giuditta. Nell'anno dodicesimo di regno di Nabucodonosor, che regnò sugli Assiri nella grande città di Ninive, al tempo in cui Arpcasad regnava sui Medi a Ecbatana. Egli edificò intorno a Ecbatana mura di pietre squadrate, della larghezza di 3 cubiti e della lunghezza di 6, dando al muro l'altezza di 70 cubiti e la larghezza di 50. Alle porte della città eresse torri alte 100 cubiti, con fondamenta larghe 60 cubiti. Fece le porte che si elevavano all'altezza di 70 cubiti, con 40 di larghezza, sì da permettere l'uscita del grosso delle sue forze e la sfilata della sua fanteria. In quel tempo il re Nabucodonosor fece guerra contro il re Arpacsad nella grande pianura, che si trova nel territorio di Ragau. Intorno a lui si raccolsero tutti gli abitanti della regione montuosa, tutti quelli che risiedevano lungo l'Eufrate, il Tigri, l'Idaspe e nelle pianure di Arioch, re degli Elamiti. Così molti popoli accorsero a schierarsi con la gente di Keleud. Nabucodonosor, re degli Assiri, inviò un messaggio a tutti gli abitanti della Persia e a tutti gli abitanti dell'Occidente, cioè della Cilicia, di Damasco, del Libano e dell'Antilibano, a tutti quelli che abitavano lungo la costa marittima, alle popolazioni del Carmelo, di Galaad, della Galilea superiore, della estesa pianura di Esdrelon, alle genti della Samaria e delle sue città, al di là del Giordano, fino a Gerusalemme, a Batane, Chelus, Cades, e al torrente d'Egitto, a Tafane e Ramesses, e tutta la regione di Gessen, fino ad arrivare oltre Tanis e Menfi, e a tutti quelli che risiedevano in Egitto fino ai confini dell'Etiopia. Ma tutti gli abitanti di ognuna di queste regioni disprezzarono l'appello di Nabucodonosor, re degli Assiri, e non si unirono a lui per far la guerra. Infatti, non avevano alcun timore di lui, essendo ai loro occhi un uomo da nulla. Perciò rinviarono i suoi messi a mani vuote e con disonore. Allora Nabucodonosor si irritò terribilmente contro tutte queste regioni e giurò per il suo trono e il suo regno di vendicarsi, sterminandole con la spada, di tutte le regioni della Cilicia, di Damasco e della Siria, di tutti gli abitanti del paese di Moab, delle genti di Ammon, di tutta la Giudea e di tutti gli abitanti dell'Egitto fino alle frontiere dei due mari. Nell'anno 17° assalì con il suo esercito il re Arpacsad e lo vinse in combattimento, sbaragliandone tutto l'esercito, tutta la sua cavalleria e tutti i carri. Si impadronì delle sue città, giungendo fino a Ecbatana, di cui espugnò le torri, ne depredò le piazze, riducendone la magnificenza in ludibrio. Indi fece prigioniero Arpacsad sulle montagne di Ragau, lo trafisse con le sue lance e lo sterminò completamente. Fece quindi ritorno a Ninive con le sue truppe e tutti quelli che si erano a lui congiunti, un'immensa moltitudine di guerrieri, e lì si diedero a feste e banchetti, lui e il suo esercito, per 120 giorni.